Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, siamo ormai alle porte del Natale. Allora, che cosa leggere in questi giorni, anzi direi in queste ore? Ci riporta proprio al Natale della gente normale, una raccolta di racconti brevi ambientati tutti a Milano. E infatti il titolo del libro è Natale in Piazza Duomo. Il libro è curato da Ermanno Paccagnini, gli autori sono Laura Bosio, Isabella Bossi Fedrigotti, Paolo Di Stefano, Valentina Fortichiari, Vivian Lamarck, Marco Missiroli, Ferruccio Parazzoli, Roberto Perrone e Alessandro Zaccuri. È pubblicato da Interlinea, il libro costa 12 euro, 100 pagine. Gente normale, dicevo, ma non soltanto. Per esempio nel racconto di Valentina Fortichiari incontriamo Leonardo da Vinci, in un racconto che coglie il grande maestro mentre in un suo Natale milanese scopre il viso incantato di un ragazzo di strada. Oppure ci sono persone normali colpiti da eventi eccezionali, per esempio il cieco Calogero, detto Bambino, che nel racconto di Ferruccio Parazzoli incontra Santa Lucia che gli consentirà di vedere per qualche ora al fine di recuperare una bambina extracomunitaria di cui si erano perse le tracce. Oppure c'è la normale solitudine di un uomo ormai maturo e benestante che troverà un equilibrio interiore proprio fuori dal Duomo nel racconto di Laura Bosio. Oppure la lezione che verrà a una famiglia e a un padre normale dal figlio, un maschietto di 6 anni, che aiuterà il genitore a riscoprire radici, valori, affetti e anche mancanze, come scrive Roberto Perrone. Come sentite, sono tutte storie apparentemente normali, ma capaci di aprirci nella scenografia di Milano squarci inaspettati sul Natale di ciascuno di noi. E di questo parliamo adesso col curatore. Buonasera a Ermanno Paccagnini. Buonasera a tutti voi, grazie. Ermanno Paccagnini, c'è una cifra milanese nella letteratura del Natale? Io direi che questo gruppo di scrittori che hanno affrontato, diciamo, l'argomento sono stati capaci di evidenziarla, mi pare, no? Proprio questa Piazza Duomo di oggi, che però è un momento così di gente che gira, di gente che si ritrova, ma al tempo stesso di gente anche che forse cerca di sfuggire alla sua solitudine, ma è anche la piazza del Duomo, diciamo, di tanti secoli fa, quando ad aggirarsi lì è un Leonardo che va cercando il volto del Gesù per il Cenacolo, no? In fondo, no? Quindi direi che c'è una neve che si fa calpestare, ma non soffoca, un'atmosfera chiara, ecco, direi, non tanto di quelle buie di brume e di pioggia, ma direi proprio di una certa chiarità, ecco, che forse va da contrasto con gli animi delle persone. Lei ha accennato al tema della solitudine. Com'è questa forte contrapposizione tra i riti della festa e la solitudine di ciascuno? Il fatto è che Natale, come sempre, pone dei problemi alle persone che vogliono pensare, che sanno pensare, perché Natale diventa anche il momento dei conti con se stessi, cioè l'atmosfera esterna è quella di gioia, di regali, di doni, ma poi in realtà uno comincia anche a pensare a quella che è la propria situazione. Spesso sono persone sole, quindi come trascorrerò questa serata? Gli amici mi chiamano, vado girando. Altre volte sono momenti così anche familiari che ci si ritrova, quindi i rapporti interni che si muovono in questa direzione. E quindi l'arrivare a pensare può portare in varie situazioni. Per cui c'è un certo punto chi cerca un po' di, verrebbe da dire, di drogarsi, no, con questa atmosfera, ma poi restando con la sua amarezza, che in realtà fa anche emergere questo squarcio di futuro. E non manca però anche chi sa trovare questa dimensione, forse anche nei bambini devo dire, no? Questa dimensione di complicità, di sorriso. Ci sono un paio di racconti che chiudono proprio con queste parole, no? E sorrise, ecco. Forse non è la felicità, ma di certo un po' di serenità che può anche intervenire in fondo. Nella sua presentazione lei insiste appunto su questo concetto del Natale come riesame. Secondo lei siamo preparati a questo riesame, a farci riesaminare da noi stessi? Forse in questo periodo sarebbe da dire per certi aspetti sì, ma per altri aspetti no, perché forse a pesare sono troppe le situazioni socio-economiche che incidono. Credo che vada prevalendo maggiormente l'aspetto esteriore più che l'aspetto interiore. L'aspetto interiore significa a un certo punto davvero riuscire a parlare con se stessi, non dico a chiudersi agli altri, anzi proprio aprendosi agli altri, veramente a guardarsi dentro. Non so se oggi sia davvero un clima capace di portare le persone a guardarsi dentro, francamente. Ecco, lei nota nella sua presentazione che i protagonisti di questi racconti sono quasi tutti maschi. Come se lo spiega questa... Ma io direi che proprio la curiosità è non tanto proprio che siano tutti maschi, ma il fatto è che a scegliere anche dei protagonisti maschili siano le scrittrici, no? Quindi davvero c'è questo aspetto... non saprei, perché l'aspetto così che mi ha colpito è il fatto che poi a guardare meglio dentro l'animo maschile siano proprio tra l'altro queste scrittrici che guardano questo animo maschile nel lato direi più problematico, più sofferto, più animato. Non so se diventa una sorta di specularità trasversale, questo non lo saprei dire, però non so, forse l'uomo in questi frangenti si sente magari meno coinvolto in quello che è l'atmosfera natalizia, probabilmente può essere anche questo, però davvero singolare proprio questo aspetto, le scrittrici che vanno a scegliere questi personaggi e tra l'altro persone mature, perché l'aspetto è proprio questo, non sono dei giovani, sono personaggi tra i 50 e i 60 anni, ecco l'età forse davvero anche del riesame è anche questo. Forse fanno questa scelta le scrittrici per farci fare cattiva figura. Sarebbe bello davvero pensarlo, ma però l'aspetto è proprio questo, mi ha sempre colpito la difficoltà tante volte di scrittrici di rappresentare l'animo maschile, insomma, no? Direi che qui mi pare che ci siano riuscite proprio per questo aspetto di delicatezza, altre volte sì, altre volte direi, non direi proprio per farci cattiva figura, ma potrebbe anche essere un modo di vedere l'altra parte di sé, ecco, o quella parte di sé rappresentata che dal compagno o da quello che chiamano tante volte l'animo maschile che c'è in ogni donna, così come ogni uomo ha il suo animo femminile. Ermanno Paganini, lei è un grande critico letterario, che lettura si sentirebbe di consigliare come lettura del Natale ai nostri ascoltatori? Mi piacerebbe pensare così, per dire brevemente, magari a un due o tre titoli molto diversi tra di loro che mi hanno colpito. Dovessi parlare della narrativa, mi piace ripensare al giovane romanziere che ha vinto il premio Campiello Giovani, che è Matteo Cellini, con Kate Io, pubblicato da Fassi, perché sa affrontare con leggerezza e con un sorriso, ad esempio, il tema dell'obesità. Questa ragazza di 18 anni che si ritrova grande, insomma, quattro in famiglia non ci stanno su una macchina, in sostanza, no? Visto che la condizione familiare è quella. Dovessi pensare invece a temi non narrativi, mi ha colpito molto quest'anno la presenza di un testo che a me piace tantissimo e che finalmente vedo anche pubblicato integralmente, che sono gli adagi di Erasmo, questa saggezza antica sempre rivissuta, e curiosamente degli adagi di Erasmo sono uscite praticamente tre edizioni, una tematica da Sellerio, la prima edizione nei millenni in Audi e tutta gli adagi uscite ad esempio proprio da Bompiani, e poi c'è un titolo che suggerirei veramente per un grande sorriso, è uscito da Sellerio, sono due autrici, Ella Bartù e Susan Elderkin, ma devo dire che c'è l'edizione italiana riaggiustata da Fabio Stassi, un autore entrato nella cinquina del Campiello, il titolo è Curarsi con i libri, rimedi letterari per ogni malanno. Ecco, è veramente un testo delizioso, no? Siamo biblioterapiste, si dicono loro, per cui per ogni malanno che può esserci, cioè i disturbi della lettura, eccetera, ma potrebbe essere, che so, al verde essere che ha come suggerimento di lettura il grande Gatsby di Fitzgerald, omonimi Martin Langis, è proprio giocato in questi termini, curarsi con i libri proprio per davvero ritrovarsi, al di là, perché ci sono delle malattie che non sono solamente fisiche. Insomma, essere soli a Natale è impossibile. Grazie a Ermanno Paganini e buon Natale. Grazie a tutti voi e buon Natale a tutti gli ascoltatori. Un libro il cui titolo potrebbe indurci a pensare che esso abbia a che fare col Natale o col personaggio di cui il Natale rievoca la nascita è quello che vi propongo adesso e che invece col Natale non ha nulla a che fare. È l'ultimo libro di G.M. Coetzee, le sigle stanno per John Maxwell Coetzee, premio Nobel per la letteratura del 2003, uno scrittore sudafricano trapiantato in Australia. Il suo ultimo libro si intitola L'infanzia di Gesù, è pubblicato da Einaudi, 250 150 pagine, 20 euro ed è tradotto da Maria Baiocchi. Gesù non c'entra proprio nulla con questo libro e molti critici si sono chiesti il perché, anzi, di questo titolo. C'è sì un piccolo David con un padre che non è suo padre e una madre che probabilmente non lo ha nemmeno messo al mondo. C'è una pagina che è stata letta come un'allegoria dell'Annunciazione, c'è una fuga finale che potrebbe far pensare alla fuga in Egitto, ma insomma il libro non è certo un'allegoria del cristianesimo, è un'allegoria sì, ma dai significati spesso misteriosi, in alcuni punti contraddittori e reconditi. Un critico, per esempio, ha scritto che se questo libro non fosse stato di Cozzi probabilmente non avrebbe potuto essere pubblicato, e invece dobbiamo essere grati allo scrittore perché in questo volume solleva autentici problemi filosofici e politici. Due, il padre putativo, chiamiamolo così, e il figlio sono degli esuli che arrivano in una comunità apparentemente socialisteggiante che non lascia molto spazio, sia pure con benevolenza, all'individuo e alla sua libertà. E il ragazzo David, un bambino geniale ma assolutamente individualista, è portato addirittura a mettere in discussione le regole elementari della lingua e della matematica, e autore di domande apparentemente ingenue ma sempre spiazzanti, a un certo punto, proprio per questi tratti, diventerà quasi una minaccia, perché la comunità sentirà, riconoscerà in lui degli elementi pericolosi che inducono a pensarlo un po' con la propria testa. È una comunità quella che ama il quieto vivere, che non vuole rimettere in discussione tutti i punti dell'organizzazione sociale che sembrano assodati. Un ragazzo che rimette in discussione l'aritmetica e la lingua potrebbe essere un pericolo per tutti, e a un certo punto infatti lo minacciano di portarlo in riformatorio, anzi lo mettono in riformatorio dal quale il David fuggirà. Insomma, un libro puzzle da scoprire pagina per pagina, ma capace di farci riflettere su molti aspetti della vita sociale. Alvaro non è interessato all'ironia, e nemmeno Elena. Elena è una donna intelligente, ma non vede nessuna duplicità nel mondo. Non vede differenza tra il modo in cui le cose appaiono e quello in cui sono. Una donna intelligente e ammirevole, che con i mezzi più esigui, cucito, lezioni di musica, faccende domestiche, ha messo insieme una nuova vita. Una vita alla quale sostiene, ha ragione, che non manchi niente. Stessa cosa per Alvaro e gli scaricatori. Non hanno brame segrete che lui possa indovinare e nemmeno una voglia matta di un altro tipo di vita. Solo lui è l'eccezione, l'insoddisfatto, il disadattato. Cos'è che non va in lui? È, come dice Elena, solo il vecchio modo di pensare e di sentire che ancora non è morto in lui, che ancora scalcia e trema, scosso dagli ultimi spasmi. Il nostro far l'amore non ha peso. Al cibo che mangiamo, alla nostra spaventosa dieta a base di pane, manca la sostanza. Manca la sostanza della carne animale con tutta la gravità del sangue versato e del sacrificio che c'è dietro. Le nostre stesse parole mancano di peso. Queste parole spagnole che non vengono dai nostri cuori. E a questo punto la linea alle informazioni sul traffico. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, proseguiamo con due filoni di libri natalizi. Il primo è quello narrativo e cominciamo con due libri che sdrammatizzano il Natale. Il primo è quello di Luca Bianchini, autore de La cena di Natale, Mondadori, 190 pagine, 12 euro. Bianchini è un autore torinese che ha avuto fortuna qualche mese fa con il libro Io che amo solo te, e questo di quel successo è un po' la prosecuzione. Infatti il titolo preciso è La cena di Natale di Io che amo solo te. Troviamo i protagonisti del primo libro, dei pugliesi, che in questo caso partecipano a un evento straordinario, una nevicata a Polignano a Mare, dalla quale prendono le mosse i preparativi per un cenone natalizio che deve risultare indimenticabile, anche a costo di costringere un figlio a scrivere a mano i menù su pergamene personalizzate che sfoggiano a 9 antipasti, 3 primi, 3 secondi e vari dessert. Un altro Natale non conformista è quello in compagnia dei gialli di Natale, che danno il titolo alla raccolta pubblicata da Einaudi con racconti di autori celebri, perché troviamo tra gli altri Rex Stout, Agatha Christie, Thomas Hardy e molti altri. Il libro si intitola appunto Gialli di Natale, 16 euro, 304 pagine, ed è un libro questo di meditazione, come ci spiega nella prefazione Margherita Oggero, perché va letto come un buon bicchiere di cognacco di porto da assaporare in poltrona nell'ambiente confortevole della propria casa. Per chi ama il Natale in versione più tradizionale e legato anche al significato religioso di questa festa, segnalo due libri sul personaggio di cui appunto celebreremo tra poco la nascita, cioè Gesù Cristo. Lo troviamo nell'opera di una mistica spagnola del XV secolo, Isabel de Villena, che fu badessa a Valencia e scrisse Una vita di Cristo, che è pubblicata da Paolini, 528 pagine, 42 euro, tradotto da Simone Sari, che cura anche una lunga introduzione per presentare l'autrice, che era una nobildonna nata all'incirca nel 1480, e colloca questo personaggio e quella sua opera nell'ambito della cultura del suo tempo. Il libro fu redatto come esercizio per le monache del convento che appunto l'autrice governava, per impressionare le quali la suora, la badessa, presentò la vicenda di Cristo quasi che si trattasse di uno specchio, come scrive il curatore, della società di palazzo, per cui per esempio l'angelo che annuncia a Gioacchino la sua straordinaria paternità è il ciambellano di corte, gli arcangeli Gabriele e Michele sono rispettivamente segretario e viceré, Dio è ovviamente il re e Maria la regina. È un'opera fresca che cerca di riprodurre la spontaneità della vita ordinaria nella vicenda straordinaria che viene narrata, come testimoniano queste righe sull'evento che ricorderemo appunto mercoledì. La signora, guardando quel luogo, cercava un posto dove far riposare suo figlio e, non trovando nessuna parte che la soddisfacesse, disse alle sue ancelle: «O mie domestiche, dove consigliate di porre questo re divino? Perché non ha nessun luogo dove posare il capo, perché, come vedo, non c'è luogo dove possa adagiare il suo glorioso capo». E rispose Santa Povertà, che era la sua addetta alle camere, e disse: «Mia signora, questo presepe è stato eletto dal signor figlio vostro come letto per riposare. Posatevelo, signora, non abbiate paura delle bestie che vi sono, perché dato che gli uomini lo hanno tanto disconosciuto e detestato, le bestie, signora, non gli verranno meno, anzi, gli presteranno con molto piacere la mangiatoia e lo riconosceranno come loro Dio e Creatore». E a proposito di badesse, vi segnalo il libro di una badessa noi contemporanea, che è una grande teologa, Anna Maria Canopi, che ha fondato e guida la comunità benedettina dell'isola di San Giulio sul Lago d'Orta. Il libro si intitola Un angelo anche per te, pubblicato dalle Paolino, 88 pagine, 14,50 euro, e rappresenta una riflessione religiosa attraverso le figure degli angeli e alcune celeberrime opere pittoriche qui riprodotte. Gli angeli, secondo l'autrice, si presentano come strumenti della benevolenza divina verso il popolo eletto, poi annunciano i grandi misteri del Cristo e sono al suo servizio nell'opera della redenzione. Alla fine dei tempi, infine, conclude l'autrice, accompagnano il Cristo al suo ritorno glorioso. E sentiamo che ruolo giocano gli angeli nella notte del Natale, dal libro di Anna Maria Canopi. Il Natale è questa semplice e straordinaria realtà. È il Figlio di Dio che viene nel mondo come Salvatore e inaugura il regno della vita e dell'amore, della giustizia e della pace. Ma Egli non opera da solo. Nessuno pensi di non essere tra gli amati dal Signore e perciò da Lui chiamati a diffondere la buona notizia del Vangelo. Gli angeli ci scuotono. Occorre quindi svegliarsi dal torpore dell'indifferenza e aprirsi ad accogliere il dono della vita con fede schietta e con spirito di gratitudine. Occorre ritrovare uno stile di vita semplice, povero, che lasci spazio alla gratuità dell'amore, a un amore concreto che si fa servizio. Ricevuto l'annuncio dagli angeli, i pastori si fanno a loro volta angeli per tutti coloro che incontrano ancora immersi nelle tenebre. E su queste creature vi segnalo un altro libro che si intitola Angeli, ebraismo, cristianesimo, islam di Giorgio Agamben, pubblicato da Neri Pozza, 934 pagine, 22 euro, un volume che raccoglie testi sugli angeli che appartengono alle tre grandi religioni. Per par condicio parliamo anche del diavolo, al quale ha dedicato un saggio il grande poeta inglese Percy Shelley, vissuto tra il 1792 e il 1822, il quale scrisse questo saggio nel 1820. Ce lo ripropone La vita felice, 82 pagine, 8,50 euro. Trovate anche il testo inglese a fronte, la traduzione di Ilaria Borin e Luigi Lunari. Shelley, come scrive Lunari, era granitico, imperturbato, ateo, e qui vuole farsi beffa della costruzione religiosa di personaggi come gli angeli e i demoni. Secondo l'autore, l'angelo, il demonio sono degli artifici ai quali fa comodo ricorrere anche agli artisti, perché è più facile rappresentare il male che non il bene. È più facile, scrive Shelley, essere Michelangelo che non Raffaello. Tornando a Gesù, un Gesù che non nasce nella mangiatoia e che ci viene presentato come un complesso personaggio storico è Gesù il ribelle. Questo è il titolo di cui è autore uno studioso della religione di origini iraniane e ormai americano, Reza Aslan. Il libro pubblicato da Rizzoli, 340 pagine, 19,50 euro, ed è tradotto da Stefano Galli, Sara Reggiani e Leonardo Taiuti. Un Gesù, avrete capito, non agiografico, ma anzi profondamente immerso nella realtà del suo tempo, anzi protagonista delle tensioni anche politiche e sociali a lui contemporanee. Perciò questo libro ha fatto molto discutere negli Stati Uniti, anche per le origini dell'autore, che è di origine evidentemente musulmana, e ci presenta Gesù come uno zelota, un ribelle contro Roma e i suoi adepti locali, che non aveva affatto in mente di fondare alcuna chiesa o una nuova religione, ma piuttosto voleva instaurare il regno di Dio. La tesi non è nuovissima, come hanno osservato molti critici, ma il libro è stato salutato come un'ottima ricostruzione dell'ambiente della Palestina ai tempi di Gesù. E sentiamo quindi da questo libro il contrasto tra il Gesù della mangiatoia e quello autentico che avrebbe percorso le strade della Galilea. L'evangelista Luca situa a Betlemme la nascita di Gesù non perché è avvenuta lì, ma a causa delle parole del profeta Michea. «E tu, Betlemme, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele». Luca vuol dire che Gesù è il nuovo Davide, il re dei Giudei posto da Dio sul trono per governare la terra promessa. In breve, i passi evangelici sull'infanzia di Gesù non sono resoconti storici e non mirano a essere letti come tali. Sono affermazioni teologiche sullo status di Gesù in quanto unto del Signore, discendente di Davide e Messia preannunciato dalle Scritture. Quel Gesù, l'eterno Logos, autore di tutto il creato, il Cristo che siede alla destra del Padre, lo troveremo a Betlemme nell'umile mangiatoia tra pii pastori e saggi venuti dall'est con doni simbolici. Il Gesù reale, l'umile lavoratore ebreo nato tra il 4 a.C. e il 6 d.C. nella pietrosa Galilea, lo troveremo invece nelle casupole di fango e sassi del ventoso paesino di Nazareth. E a questo punto... Il confettino. Anche oggi vi segnalo qualche titolo natalizio, una visita a Babbo Natale, quella che fa il signor Acqua nel libro Buon Natale, signor Acqua di Agostino Traine, pubblicato da PM, 12 euro, con un bel racconto e poi un appendice per giocare con Babbo Natale, un calendario per l'anno nuovo. Un prete scrive invece «Io a Gesù non ci credo mica», l'autore è Don Paolo Aliatta, le illustrazioni sono di Carla Manea, l'editore Valentina Edizioni, 30 pagine, 12 euro. Il libro parte dalla sensazionale scoperta del dottor Cornflakes, che annuncia solennemente a tutto il mondo la falsità della notizia della nascita di Gesù, ma il suo annuncio verrà disturbato proprio da un angelo che rimetterà le cose a posto. E infine un classico irrinunciabile che non trascuro mai di segnalare in questa circostanza, il canto di Natale di Charles Dickens, che quest'anno vi propongo nella rielaborazione fedele al testo originale di Geronimo Stilton, pubblicato da PM, 220 pagine, 15,50 euro. E con questo ringrazio